Terzo anello, ad alta voce. Il Conte di Montecristo, di Alexandre Dumas. Signor Maximilien Morrel, signor Emmanuel Raymond, disse Château Renaud, potete annunciare al Conte di Montecristo che è arrivato il signore di Morcerf e che siamo a sua disposizione? Morrel si mosse per eseguire l'incarico e nello stesso tempo Beauchamp prese dalla carrozza la cassetta delle pistole. Aspettate, signori, disse Albert. Ho due parole da dire al signor Conte di Montecristo. In segreto? Domandò Morrel. No, signore, in presenza di tutti. Aspetto, signore, disse il conte. Signore, disse Albert con voce dapprima tremante, poi sempre più sicura. Signore, io vi rimproveravo di aver divulgato la condotta di mio padre in Epiro, perché, per quanto fosse colpevole il signore di Morcerf, non credevo aveste il diritto di punirlo. Ma oggi so, signore, che avete questo diritto. Non è il tradimento che Fernand Mondego fece ad Ali Pascià che mi rende pronto a scusarvi, ma il tradimento che il pescatore Fernand fece a voi. Sono le disgrazie inaudite che sono seguite a questo tradimento. Perciò lo dico e lo proclamo ad alta voce. Sì, signore, avete avuto ragione di vendicarvi di mio padre e io, suo figlio, vi ringrazio di non avergli fatto un male peggiore. Se fosse caduto un fulmine in mezzo agli spettatori di quella scena in attesa, non li avrebbe certo sbalorditi più di quella dichiarazione di Albert. Quanto a Montecristo, i suoi occhi erano rivolti al cielo con un'espressione di infinita riconoscenza, e non poteva ammirare abbastanza il modo con cui l'indole focosa di Albert, di cui aveva apprezzato il coraggio fra i banditi di Roma, si fosse ad un tratto piegata a tanta umiliazione. Subito riconobbe l'influenza di Mercedes e capì perché quel nobile cuore non si era opposto al suo sacrificio. Sapeva che era superfluo. Ora, signore, disse Albert, se trovate soddisfacenti le scuse che vi ho fatto, datemi la vostra mano, vi prego. Dopo il merito così raro dell'infallibilità, che sembra appartenervi, il primo di tutti gli altri meriti, a mio avviso, è quello di saper confessare i propri torti. Ma questa missione è doverosa solo per me. Io agivo bene secondo gli uomini, ma voi agivate bene secondo il volere di Dio. Un angelo solo poteva salvare uno di noi due dalla morte certa. E l'angelo è disceso dal cielo, se non per fare di noi due amici, almeno per fare di noi due uomini che si stimano. Montecristo, con le lacrime agli occhi, il petto ansante, la bocca socchiusa, tese una mano ad Albert che la strinse con rispettoso timore. Signori, disse Albert, il Conte di Montecristo gradisce e accetta le mie scuse. Io ho agito troppo precipitosamente contro di lui. Ho agito male. Ora il mio errore è riparato. Spero che la gente non mi considererà un vile, perché ho fatto ciò che la mia coscienza mi ha ordinato di fare. Ma in ogni caso, se qualcuno si sbagliasse sul mio conto, soggiunse il giovane rialzando la testa con orgoglio e come se lanciasse una sfida ai suoi amici e ai suoi nemici, cercherò di rettificare le sue opinioni. Che cosa dunque è accaduto questa notte? Domandò Beauchamp a Château Renaud. A questo punto mi pare che noi qui abbiamo ben poco da fare. Infatti, non riesco ancora a capire se ciò che ora ha fatto Albert sia molto meschino o molto bello, disse il barone. Quanto a Montecristo, con la fronte china, le braccia inerti, schiacciato dal peso di 24 anni di ricordi, non pensava né ad Albert, né a Beauchamp, né a Château Renaud, né a nessuno dei presenti. Pensava a quella coraggiosa donna che era venuta a chiedergli la vita del figlio e alla quale aveva offerto la sua, che lei ora salvava rivelando un terribile segreto di famiglia capace di distruggere per sempre nel cuore del giovane qualunque sentimento di pietà filiale. Sempre la provvidenza, mormorò. Ah, da oggi soltanto sono veramente certo di esserne suo strumento. Albert si diresse verso l'appartamento di sua madre e, siccome non trovò nessuno in sala per annunciarlo, si inoltrò fino alla camera da letto di Mercedes e, con il cuore gonfio per quanto vedeva e indovinava, si fermò sulla soglia. Come se la stessa intenzione animasse quei due corpi, Mercedes faceva nelle sue camere ciò che Albert aveva fatto nelle proprie. Tutto era stato messo in ordine: i merletti, le guarnizioni, i gioielli, la biancheria, il denaro erano ordinati nel fondo dei cassetti, di cui la contessa raccoglieva scrupolosamente le chiavi. Albert vide tutti quei preparativi, comprese tutto e, gridando «Madre mia!», corse da lei gettandole le braccia intorno al collo. Chi avesse potuto ritrarre l'espressione di quelle due figure avrebbe certamente fatto un bel quadro. Infatti, tutti quei preparativi, dettati da un'energica decisione che non avevano fatto paura ad Albert per se stesso, lo spaventavano per sua madre. «Che cosa fate dunque?» domandò. «Che cosa avete fatto voi?» rispose lei. «Oh, madre mia!» gridò Albert, commosso al punto da non poter parlare. «Per voi la cosa è diversa. No, voi non potete aver deciso ciò che ho deciso io, poiché vengo a dirvi che do un addio alla vostra casa e a voi». «Anch'io, Albert», rispose Mercedes. «Anch'io parto. Avevo contato, lo confesso, che mio figlio mi avrebbe accompagnata. Mi sono sbagliata?» «Madre mia», disse Albert con fermezza, «non posso farvi condividere la sorte che scelgo per me. D'ora innanzi bisogna che io viva senza nome, senza ricchezza. E all'inizio di questa rude esistenza occorre che chieda aiuto a un amico finché non sarò in grado di mantenermi da solo. Così, mia buona madre, vado da Franz a pregarlo di prestarmi quella piccola somma che presumo necessaria». «Tu, mio povero figlio», gridò Mercedes, «tu soffrire la miseria, soffrire la fame! Ah, non dirlo! Annulleresti tutte le mie decisioni!» «Madre mia», rispose Albert, «sono giovane, sono forte. Credo di essere coraggioso e da ieri ho imparato che cosa può la volontà». «Ahimè, madre mia, vi sono esseri che hanno sofferto tanto e che non solo non sono morti, ma hanno edificato una nuova fortuna sulla rovina di tutte le promesse di felicità che il cielo aveva fatto loro, sui resti di tutte le speranze che Dio aveva loro donato. Ho imparato questo, madre mia. Ho visto quegli uomini. So che dal fondo dell'abisso in cui li aveva gettati il loro nemico si sono rialzati con tanto vigore e tanta gloria da dominare il loro antico vincitore, precipitandolo a loro volta in un abisso. No, madre mia, no. Da oggi ho rotto con il passato e non ne accetto più nulla, neppure il nome, perché, voi lo capite, non è vero, madre mia? Vostro figlio non può portare il nome di un uomo che deve arrossire davanti ad un altro uomo». «Albert, figlio mio», disse Mercedes, «se avessi avuto un cuore più forte, sarebbe stato questo il consiglio che ti avrei dato. La tua coscienza ha parlato quando la mia voce spenta taceva. Ascolta la tua coscienza, figlio mio. Tu avevi degli amici, Albert. Tronca momentaneamente ogni rapporto con loro, ma non disperare, in nome di tua madre. La vita è ancora bella alla tua età, mio caro Albert, perché tu hai appena 22 anni e siccome a un cuore puro come il tuo occorre un nome senza macchia, prendi quello di mio padre. Egli si chiamava Herrera. Io ti conosco. Albert mio, qualunque carriera tu segua, in breve tempo renderai questo nome illustre. Allora, amico mio, ricomparirai nel mondo nobilitato dalle tue passate disavventure. E se, malgrado tutte le mie previsioni, ciò non dovesse accadere, lasciami almeno questa speranza. A me, che non avrò più altro pensiero. A me, che non ho più avvenire e per la quale la tomba comincia dalla soglia di questa casa». «Farò secondo i vostri desideri, madre mia», disse il giovane. «Sì, condivido la vostra speranza. La collera del cielo non perseguiterà voi così pura e me così innocente. Ma poiché siamo risoluti, agiamo prontamente. Il signore di Morcerf ha lasciato il palazzo mezz'ora fa. L'occasione, come vedete, è favorevole per evitare scontri e spiegazioni. Vi aspetto, figlio mio, disse Mercedes. Albert corse sul boulevard da dove tornò con una carrozza da nolo che doveva condurli fuori dal palazzo. Si ricordò di una piccola casa ammobiliata in rue Saint-Père, dove sua madre avrebbe trovato un alloggio modesto ma decente. Ritornò dunque a prendere la contessa. Nel momento in cui la carrozza si fermava davanti alla casa e Albert ne discendeva, un uomo si avvicinò a lui e gli consegnò una lettera. Albert riconobbe Bertuccio. «Del conte», disse l'intendente. Albert prese la lettera, l'aprì e la lesse. Quindi cercò con gli occhi Bertuccio, ma Bertuccio era scomparso mentre il giovane leggeva. Allora Albert, con le lacrime agli occhi, il petto gonfio dall'emozione, rientrò nella camera di Mercedes e, senza pronunciare parola, le porse la lettera. Mercedes lesse. Albert, nel farvi sapere che sono venuto a conoscenza del progetto che siete sul punto di mettere in atto, credo di dimostrarvi ugualmente che ne comprendo la delicatezza. Eccovi libero. Voi lasciate il palazzo del conte, vi ritirate con vostra madre, libera come voi. Ma riflettete, Albert. Voi le dovete più di quello che potete offrirle, povero e nobile cuore che siete. Riservate a voi la lotta. Reclamate per voi le sofferenze. ma risparmiate a lei la miseria che accompagnerà inevitabilmente i vostri primi sforzi, poiché lei non merita neppure il riflesso della disgrazia che oggi la colpisce, e la provvidenza non vuole che l'innocente paghi per il colpevole. So che lasciate entrambi la casa di Rue du Helder senza portare via niente. Non cercate di scoprire in quale modo l'ho saputo. Lo so, e basta. Ascoltate, Albert. 24 anni or sono. Tornavo felice e fiero nella mia patria. Avevo una fidanzata, Albert. Una santa donna che adoravo, alla quale portavo 150 luigi accumulati faticosamente con un lavoro senza riposo. Questo denaro era per lei. Io lo destinavo a lei. E sapendo quanto il mare sia perfido, avevo seppellito il nostro tesoro in un piccolo giardino della casa che mio padre abitava a Marsiglia, nei viali di Meillon. Vostra madre, Albert, conosce benissimo questa povera casa. Ultimamente, venendo a Parigi, sono passato da Marsiglia. Andai a vedere quella casa dai dolorosi ricordi. E la sera, con una vanga, ho esplorato l'angolo dove avevo sepolto il mio tesoro. La cassetta di ferro era ancora nel medesimo posto. Nessuno l'aveva toccata. È nell'angolo ombreggiato di un bel fico, piantato da mio padre il giorno della mia nascita. Albert, questo denaro, che allora avrebbe dovuto provvedere alla vita e alla tranquillità di questa donna che adoravo, ecco che oggi, per una strana e dolorosa combinazione, può avere lo stesso scopo. Oh, capite bene il mio pensiero. Io che potrei offrire dei milioni a questa povera donna, le rendo soltanto il tozzo di pane nero dimenticato sotto il mio povero tetto dal giorno in cui fui separato per sempre da lei. Voi siete un uomo generoso, Albert, ma a volte siete accecato dall'orgoglio e dal risentimento. Se rifiutate, se domandate ad altri ciò che ho io il diritto di offrirvi, dirò che siete poco generoso nel rifiutare ciò che appartiene alla vita di vostra madre ed è offerto da un uomo il cui padre è stato fatto morire dal vostro negli orrori della fame e della disperazione. Finita questa lettera, Albert, pallido e immobile, aspettava ciò che avrebbe deciso sua madre. Mercedes alzò al cielo uno sguardo di ineffabile espressione. «Accetto», disse. «Egli ha il diritto di pagare la dote che porterò in convento». E mettendosi la lettera sul cuore, prese il braccio di suo figlio e, con passo più sicuro di quanto lei stessa forse si aspettasse, scese le scale. Montecristo era ritornato anche lui in città, con Emmanuel e Maximilien. Il ritorno fu lieto. Emmanuel non dissimulava la gioia di aver visto succedere la pace alla guerra. Morrel, in un angolo della carrozza, lasciava sfogare le parole di contentezza del cognato e teneva per sé una gioia altrettanto sincera. «Signor Conte», disse Emmanuel, «fatemi scendere davanti a casa mia, affinché mia moglie non abbia un momento di pena in più, né per voi né per me. Se non fosse cosa ridicola andare a fare mostra del proprio trionfo», disse Morrel, «inviterei il conte a entrare da noi. Ma il signor conte ha senza dubbio anche lui dei cuori da rassicurare». Erano giunti al palazzo degli Champs-Élysées. Montecristo aprì lo sportello e Morrel balzò a terra e disparve per il viale di Marigny. Montecristo andò rapidamente incontro a Bertuccio, che aspettava sulla scalinata. «Ebbene?» «Ebbene», rispose l'intendente. «Lei lascia la casa». «E il figlio?» «Florentin, suo cameriere, crede che faccia altrettanto». «Venite e fate avvisare ai dei che sono tornato». «Eccomi», disse la giovane donna, che al rumore della carrozza era già discesa, con il viso raggiante di gioia nel rivedere il conte sano e salvo. Bertuccio uscì. Tutti i trasporti di una figlia nel rivedere il proprio padre, tutti i deliri di un'innamorata nel rivedere il suo adorato, Aidé li provò nei primi istanti di quel ritorno atteso da lei con tanta impazienza. Certamente, quantunque meno espressiva, la gioia di Montecristo non era meno grande. La gioia, per i cuori che hanno lungamente sofferto, è simile alla rugiada per la terra inaridita dal sole. Cuore e terra assorbono quella pioggia benefica che cade su di essi, senza lasciar trasparire nulla all'esterno. Da qualche giorno, il conte di Montecristo capiva, e non osava crederlo, che c'erano due Mercedes al mondo e che poteva ancora essere felice. I suoi occhi raggianti di felicità si posero avidamente su quelli umidi di Aidé, quando ad un tratto la porta si aprì. Il conte aggrottò le sopracciglia. «Il signor di Morcerf», disse Baptistin, come se questa sola parola racchiudesse tutte le sue scuse. Infatti, il viso del conte si rischiarò. «Quale?» domandò egli. «Il visconte o il conte?» «Il conte». «Mio Dio!» gridò Aidé. «Non è ancora finita, dunque?» «Non so se sia finita», disse Montecristo prendendo le mani della fanciulla, «ma ciò che so è che non hai nulla da temere». «Oh, se però il miserabile...» «Quest'uomo non ha nessun potere su di me, Aidé», disse Montecristo. «Quando avevo a che fare con suo figlio, allora sì, che c'era da temere». «Per la tomba di mio padre», disse egli sorridendo e posando la mano sulla testa della ragazza. «Ti giuro, Aidé, che se accadrà una disgrazia a qualcuno, non sarà certo a me». «Ti credo, mio signore, come se mi parlasse Dio», disse la giovane presentando la fronte al conte. Montecristo depose su quella fronte pura e bella un bacio che fece battere ad un tempo due cuori, l'uno con violenza e l'altro timidamente. «Oh mio Dio», mormorò il conte, «mi permetterete dunque di poter amare ancora?» Thank you.